Musica Maestro di Armando Turno. Un cordiale saluto da Armando Turno e un augurio di buona serata a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è in collegamento con Etienne Raymond, che è direttore di Lugano Festival, anche perché il 3 aprile comincerà appunto questa rassegna e allora parleremo con lui delle novità, delle prospettive di quest'anno, delle musiche, degli ospiti, di tutto quello che insomma aspetta questo incontro che è ormai internazionale e che noi seguiamo sempre con molto attenzione e molto affetto. Ricordo che Etienne Raymond ha lavorato alla Scala, almeno ha cominciato come maestro collaboratore alla Scala, poi è stato 10 anni a Ginevra, poi è stato a Zurigo, insomma adesso è a Lugano. Buonasera Etienne Raymond, buonasera maestro. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, io non so se nel suo curriculum ho commesso qualche errore, perché di solito ci si perde, no? Colei o coloro che fanno questo lavoro un po' così dell'organizzazione dei maestri, sempre hanno un incarico qui, là, chissà dove, insomma, una volta in Canada, una volta in Sudafrica. E io nel cercare di ricostruire il curriculum a volte sbaglio, ma gli ascoltatori mi perdonano, spero che poi mi perdonino anche gli interessati. Ma non ha sbagliato per niente, ha nominato le quattro tappe della mia carriera. Ne parleremo penso un po' più avanti, ma sono adesso dunque direttore del Lugano Festival, che a settembre si trasformerà in una stagione annuale che avrà luogo da settembre a giugno nella nuova sala che Lugano sta finendo e è quasi finita, la sala del LAC Lugano Arte e Cultura, ma forse ne parleremo un po' più avanti. Certo, per ora però inizia questo festival ed è il 3 aprile il primo appuntamento, no? Sì, con il tradizionale concerto di Venerdì Santo, che vede come protagonisti il coro della Radio Televisione Svizzera, l'orchestra della Svizzera Italiana diretti da Diego Fasoli. E quest'anno abbiamo scelto il Requiem tedesco di Johannes Brahms, che apre il festival e che mi ha permesso anche di fare un piccolo fil rouge, Brahms e Dvorak, ne parleremo un po' più avanti. Ecco, tra le prime musiche che lei mi ha proposto, poi sarebbe bello anche raccontare come è avvenuta questa proposta di musiche, perché sovente diciamo che i musicisti fanno una vita un po' raminga, ma anche coloro che in qualche modo si interessano di musica, come chi vi sta parlando, è costretto, sono costretti così ad avere delle avventure, perché ci siamo lasciati i dischi in un bar, poi io sono passato a prenderli il giorno dopo, è stata una bellissima cosa questa volta. Ha funzionato benissimo. Sì, ma lo possiamo tranquillamente confessare, tanto certo. I miei ascoltatori sanno molto ormai dei segreti che così cadenzano un po' il lavoro. Ecco, lei ha proposto, caro Raymond, ha proposto il piano trio di Brahms in una incisione della Decca. Perché questo? Perché appunto quest'anno, come l'anno scorso, ho impostato una collaborazione con il Conservatorio della Svizzera Italiana, che ha dei docenti ottimi. E siccome appunto apriamo il festival con il Requiem di Brahms e che abbiamo un po' di Dvorak anche, e che i due Brahms e Dvorak erano molto amici e si stimavano molto, come sappiamo, ho chiesto a tre docenti del Conservatorio di Lugano di propormi un programma di trio Brahms e Dvorak. Di Dvorak suoneranno il celeberrimo Dunki, di Brahms dunque il primo, il trio numero uno in si maggiore. I docenti sono Anna Kravchenko, pianoforte, Pavel Berman al violino e Enrico Dindo, violoncello. Non ho bisogno, penso, di presentare nessuno dei tre musicisti, che tutti e tre sono docenti al nostro conservatorio. Questa sera siamo in collegamento con Lugano, dove c'è al telefono Etienne Raymond, il maestro Etienne Raymond, che è direttore di Lugano Festival. Dopo aver lavorato alla Scala, dopo aver lavorato a Zurigo, a Ginevra, insomma in molti punti del mondo, e con lui stiamo parlando un po' di questa iniziativa che tra l'altro da settembre diventerà invece qualcosa di più concreto di una semplice rassegna stagionale, diventerà un fatto annuale annuale importante. Come dire questa differenza, maestro Raymond? Allora, dunque Lugano ha fatto costruire questo bellissimo complesso artistico che si chiama Lugano Arte e Cultura, dove c'è un museo dove avranno luogo le mostre del Museo Cantonale e del Museo Municipale di Lugano, che sono messi insieme, e c'è una bellissima sala concertistica che avrà un'acustica ottima. Abbiamo fatto le prime prove proprio 10 giorni fa e siamo tutti molto contenti. E ovviamente adesso che a Lugano c'è una vera e propria sala da concerto, il Comune ha deciso, ha voluto avere non più soltanto una rassegna internazionale in primavera, come lo è il Lugano Festival già dagli anni 80, ma voleva ovviamente una stagione tutto l'anno, da settembre a giugno. E dunque ci trasformeremo, facciamo una metamorfosi, che è anche uno dei temi, piccoli temi del festival. Ci trasformeremo in una stagione, siccome l'acustica, come ho detto, è ottima, potremo fare non soltanto, come facciamo adesso, un ciclo di grandi orchestre internazionali, che spero di avere il piacere di poter presentare agli ascoltatori prossimamente, e anche faremo, una cosa abbastanza nuova per Lugano, un ciclo di recital con grandissimi pianisti, violinisti, musica da camera, tutto quanto nella sala principale. Nel LAC c'è anche un teatro studio, si chiama, una piccola sala di 100 posti, dove organizzerò un ciclo di giovani musicisti, un ciclo di musica contemporanea, eccetera eccetera. Dunque passeremo da una piccola decina di concerti a più di 30, spalmati su tutto l'arco dell'anno, e questa sala sarà anche la sede dell'Orchestra della Svizzera Italiana, che dunque non suonerà più neanche lei al Palazzo dei Congressi, ma questa sala. E questa sala fa anche teatro, e la stagione di Lugano in Scena si svolgerà lì. Dunque un grande balzo in avanti per Lugano. Ecco, maestro Raymond, al di là del balzo in avanti, tra l'altro lei è uno svizzero francese, quindi direi che tende più a Ginevra, però ora si è, diciamo così, stabilito a Lugano, no? Esattamente. Ecco, io le chiedevo anche qual è il motivo un po' di questa rassegna che si apre il 3 aprile, che stiamo un po' presentando. Lei ci ha detto appunto del Venerdì Santo, eccetera, ma cosa c'è oltre? Allora, oltre, dunque, ho voluto invitare un vecchio amico che è Andras Schiff, che non ho bisogno di pianista eccellente, insomma, che verrà in veste di pianista e di direttore d'orchestra, verrà con la Chamber Orchestra of Europe e suonerà un pezzo assolutamente stupendo, che è il terzo concerto di Bartok, che conosciamo, che è una delle ultimissime opere di Bartok, scritte pochi mesi prima della sua morte. Però intanto lei ci spieghi un po' la rassegna. Allora, la rassegna è basata dunque sul tema del viaggio, perché faremo un viaggio dal vecchio Palazzo dei Congressi verso il LAC, e per quello che ho chiesto, ho programmato la Moldava, che è un viaggio sul fiume, ho programmato, siccome andiamo in un nuovo mondo, sarà quello del LAC, la Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak, e siccome ci trasformiamo, c'è un piccolo, un altro tema, accanto al tema del viaggio e dei nuovi territori, il viaggio il tema della metamorfosi, che è un tema che ha affascinato tanti musicisti nei secoli. Ascolteremo ad esempio le variazioni su un tema di Rachmaninoff, su un tema di Paganini di Rachmaninoff, e ho chiesto a due musicisti eccellenti, che sono Luca Pianca e Marie-Claude Chapuis, di fare un programma con musiche del 700, del 600 e del 700 attorno al tema della metamorfosi, appunto. Alcuni punti salienti del festival. Poi il festival si chiuderà quando? Allora si chiuderà, infatti, la prima parte, perché il Lugano Festival fa sempre, due parti. Sì. La prima parte si concluderà il lunedì 2 giugno, martedì 2 giugno, con i 12 violoncellisti della Filarmonica di Berlino, e poi comincerà la seconda parte del festival, che è il progetto Marta Argerich, che adesso entra nel suo 14° anno, e quello si concluderà il 29 giugno, dunque il 29 giugno definitivamente chiudiamo i battenti per quanto riguarda la musica classica del Palazzo dei Congressi con un grande concerto e ci ritroveremo tutti a settembre al Bach. Certo, senta maestro Raymond, lei ha citato Bartok e ha detto che ci sarà Schiff, appunto, il suo amico Schiff, e lei ha detto che ascolteremo il secondo movimento del concerto per pianoforte e orchestra numero 3 che Bartok scrisse, se ben ricordo, nel 45. Ecco, è un adagio religioso questo movimento, è un momento, diciamo così, anche estremamente struggente per Béla Bartok. Ecco, maestro Raymond, cosa possiamo dire accanto a questo adagio religioso? Possiamo dire che sicuramente la pace è tornata in Europa, perché Bartok ha scritto durante l'estate del 45, appunto, mesi che hanno seguito la fine della guerra, ma è anche la scoperta di tutti i drammi che sono successi in Ungheria e altrove, in tutta l'Europa, con l'apertura, la scoperta dei campi di concentramento, e dunque la pace ovviamente viene disturbata da notte false, per così dire. Però fa veramente anche da pendant, si chiama Andante religioso, lei l'ha detto, al concerto di apertura del festival, che è il Requiem di Brahms, di cui abbiamo parlato, due modi molto diversi di vedere la pace e dopo la morte, diciamo. Maestro Raymond, per arrivare a Lugano è abbastanza semplice, ma come si fa a conoscere tutto il programma? C'è un sito? C'è qualcosa? Ci può dare delle indicazioni? Il più semplice è il sito internet, di cui l'indirizzo è semplicissimo, www.luganofestival.ch. Quindi si trovano tutte le informazioni sul festival. Basta andare su un motore di ricerca e mettere Lugano Festival, esatto. E subito già esce tutto il meccanismo da cercare, da trovare. Esatto. E maestro Raymond, lei ha proposto anche una ouverture di Beethoven. Beethoven come entra quest'anno nella rassegna? Allora, devo dire che entra poco, e se non sbaglio è l'unico brano di Beethoven che suoniamo, però aprirà il penultimo concerto della rassegna con la City of Birmingham Symphony Orchestra, che verrà diretta da Andris Nelsons. Andris Nelsons, penso che tutti lo sappiano, è uno dei massimi direttori nella ancora giovane generazione. Si parla di lui, si parla di Yannick Neuwirth-Séguin, si parla di Gustavo Dudamel, si parla di Vladimir Jurovsky, insomma sono 3-4 così che veramente sono molto importanti. Andris Nelsons mi ha fatto il piacere di venire con la sua orchestra a Lugano, che dirigerà uno degli ultimi concerti in veste di direttore stabile dell'orchestra, perché alla fine della stagione lui la lascia, già preso qualche mese fa i redini della Boston Symphony Orchestra, e lui è sempre molto impegnato tra Vienna, Berlino, Bayreuth, con il Lohengrin ad esempio, e ha deciso dunque di aprire il programma con questa ouverture di Beethoven. Il programma si concluderà con la settima sinfonia di Dvorak, e quello mi ha permesso di fare uno dei fil rouge di cui parlavo all'inizio, attorno a Dvorak e alla sua amicizia con Brahms, perché durante la rassegna potremo ascoltare le tre ultime sinfonie Dunque la settima, quella che dirigerà Nelson, l'ottava che verrà suonata dall'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner e la nona detta dal Nuovo Mondo che verrà diretta lei da Vladimir Ashkenazy. Maestro Raymond, bisogna dire che Beethoven è sempre emozionante. Certo, c'è una vita, una forza, una volontà sempre dentro la sua musica che lo contraddistingue e che lo fa veramente unico. Ecco, maestro Raymond, tra l'altro l'aumento, diciamo così, del valore del franco creerà magari qualche piccolo problema. Non è che avete fatto degli sconti magari per coloro che verranno colpiti da questa sistemazione, diciamo così, nuova dei cambi? Mi spiace, questo non è possibile purtroppo, però abbiamo penso dei prezzi in 4 categorie di prezzi, penso che insomma nel Palazzo dei Congressi, anche se l'acustica non è eccezionale, si sente al suo agio un po' dappertutto, sono prezzi che tutti possono raggiungere, penso. Certo. Ma non posso trasformarmi in banchiere, è già abbastanza difficile dire essere direttore artistico, non farmi fare ancora il banchiere, è un altro mestiere. No, ma noi lo abbiamo fatto perché ovviamente ci sarà senz'altro qualche ascoltatore che magari sentendo appunto la trasmissione dirà porca miseria, mi piacerebbe andare a Lugano ma adesso il franco è più caro, l'anno scorso era più conveniente, invece adesso è come l'euro, insomma, quindi insomma la spesa va, è vero che i distributori della Svizzera mi dicono hanno maggiori sconti, che ci sono più chance così eccetera, però chiaramente c'è un impatto psicologico e io direi a tutti gli ascoltatori di guardare con fiducia anche in fondo questa spesa da affrontare eventualmente per andare al Lugano Festival. Ecco, ma direi che su un prezzo di, il prezzo di un biglietto, se la posso interrompere, si trattano di qualche euro in più. Ma insomma, un euro è sempre un euro, capisco. Certo, un euro è sempre un euro, soprattutto nei momenti in cui, insomma, diceva la Bibbia, non ci sono le vacche grasse in giro, ecco, sono un po' i tempi delle vacche magre e quindi dobbiamo anche stare attenti a tutto questo. Ma lo abbiamo detto proprio così anche per rassicurare magari qualche ascoltatore che effettivamente ha fatto questo calcolo. Maestro Raymond, cosa possiamo aggiungere per questo inizio festival, per questo 3 di aprile, per questo Requiem di Brahms? Ci sarà qualche cosa di particolare, magari qualche manifestazione collaterale subito dopo, oppure dal 3 si passa poi all'inizio vero e proprio? Allora, difatti, quello che è particolare è che il concerto, attenzione, non si fa a Lugano, ma si fa a Bellinzona, perché a Bellinzona, già per il terzo anno consecutivo, perché la cattedrale di Lugano è inagibile, perché stanno rifacendo tutto. E dunque per la terza volta ci spostiamo a Bellinzona, che è una cittadina molto, molto carina, molto bella. Il concerto avrà luogo nella Collegiata, che è una bellissima chiesa barocca. Io direi che sarebbe forse la possibilità di scoprire un po' un'altra città del Canton Ticino. Poi passiamo subito, è vero, al 10 aprile, abbiamo parlato di Andras Schiff, di Bartok. E con Bartok va sempre bene la musica di Mozart, e Andras Schiff ha scelto di concludere il suo concerto con la Sinfonia Jupiter, che se non sbaglio ascolteremo un po' più tardi, ma vorrei segnalare che avremo anche l'Academy of St. Martin in the Fields con Julia Fischer il 20 di aprile, con un programma attorno a Haydn, Mendelssohn e Schönberg. Ho parlato del concerto diretto da Vladimir Ashkenazy un po' più tardi d'aprile, ho parlato dei due concerti di musica da camera, ho parlato un po' di tutto, mi sembra, ho parlato dell'ultimo con i 12 cellisten der Berliner Philharmonica e dunque mi sono detto che forse per concludere questa conversazione la Sinfonia Jupiter è veramente un pezzo eccezionale, certo, che conosciamo. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori. Questa sera siamo in collegamento con Etienne Raymond a Lugano, direttore del Lugano Festival, e ci sta un po' raccontando cosa sarà questa rassegna, come si trasformerà con l'autunno. E poi stiamo parlando anche un po' di musica, di incontri, di situazioni, di problemi, di tutto. E molto semplicemente abbiamo citato Mozart e il maestro Raymond diceva, appunto, tra poco ascolteremo la Jupiter, la sinfonia numero 41, così chiamata. Ha ricordato anche Sir Neville Mariner, che è stato poi il mitico direttore dell'Academy of St. Martin in the Field e che in qualche modo ha rappresentato una stagione mozartiana tra le più grandi. Cosa possiamo aggiungere, maestro Raymond, a quello che ha detto e a quello che ho aggiunto? Ma appunto io direi che l'Academy of St. Martin in the Field è stata molto importante nella storia dell'accolto, dell'ascolto anche della musica del periodo classico, perché veramente è stata una delle prime orchestre da camere, la Camera a livello internazionale, è stato il predecessore di poi tutti i complessi barocchi che conosciamo, e sono molto contento di poter dire che l'Academy of St. Martin in the Fields verrà anche a Lugano quest'anno, non con Sir Neville Mariner, che quasi non la dirige più, ma con la giovane Julia Fischer e il pianista Oliver Schneider in un programma Haydn, Schoenberg e Mendelssohn. E mi piace di fare ascoltare la Sinfonia Jupiter, perché appunto l'ultimo grande tempo dell'ultima delle sinfonie di Mozart del 1788, che è un tempo di una gioia incredibile, con tutte queste linee contrapuntistiche che si intrecciano. E come l'avevo detto, dunque questa Sinfonia Jupiter concluderà il concerto di Andras Schiff del 10 aprile. Vorrei ricordarlo così anche umanamente, perché io ebbi l'occasione proprio di vederlo in azione in San Marco, nella chiesa di San Marco a Milano, dove tra l'altro Mozart suonò all'organo, fu ospite proprio dei padri agostiniani quando arrivò a Milano nel gennaio del 1770. E Mariner, sì, appunto, abitava in quel convento, nella foresteria del convento. Mariner, che venne appunto per il concerto del bicentenario, volle girare la chiesa, si emozionava in ogni angolo, perché diceva: ma qui c'è stato Mozart, ma qui... E devo dire che era una persona grandiosa, inutile dire la grandezza di questo direttore, perché ha dato molto a Mozart, ma la capacità di emozione che aveva in quella chiesa, guardando appunto i luoghi di Mozart, perché quello è uno dei pochi luoghi sicuri, appunto, dove Mozart ha suonato, dove Mozart bambino correva, forse, che ne sappiamo. Ma Mariner, l'ho visto emozionato, e devo dire, a mia volta, c'era tutta una troupe della Rai che lo seguiva, con il regista Luciano Arancio, fecero due puntate proprio per questo anniversario di Mozart, con questo direttore che si emozionava continuamente. Fu una bellissima esperienza. Maestro Raymond, le ultime cose, perché abbiamo poco tempo proprio in questo caso per salutarci e per dare le ultime indicazioni. Allora, ripetiamo il sito di Lugano Festival per conoscere il programma ed eventualmente per scegliere un concerto e per giungere a Lugano, insomma. Certo, dunque ridò l'indirizzo: www.luganofestival.ch. Si può anche scrivere un'email a info@luganofestival.ch per ricevere il programma per posta, come volete. Ecco, come si desidera. E evidentemente poi per raggiungere Lugano ci sono mille mezzi, ma ci sono treni, ci sono aerei, c'è soprattutto l'autostrada, no? Che collega. È facile, insomma, dal centro di Milano si raggiunge Lugano in un'ora. Ecco, però noi parliamo a tutta Italia, quindi supponiamo che un signore di Ravenna sia all'ascolto, insomma, deve fare un bel viaggetto, però tutta con le autostrade o con i treni. So che c'è anche un aeroporto a Lugano, e quindi sì, un aeroporto volesse... che è ben collegato, ma anche con il treno è facile, perché la linea Milano-Zurigo, che va verso il nord Europa, è molto attiva, ci sono treni, mi sembra, quasi ogni ora. Certo. Maestro Raymond, grazie per essere stato con noi, però già la invitiamo per quando comincerà la prossima stagione del Teatro Nuovo, che evidentemente cambierà un po' tutte le carte di Lugano e le carte della musica così in Svizzera, certo. Insomma. Con grande piacere. A questo punto non ci restano che i saluti. Io do appuntamento come sempre domenica prossima alle 21. Un cordiale saluto da Armando Torno e da Lugano. Un grande ringraziamento a tutti e un cordiale saluto da parte di Etienne Raymond.